io lo giurano anche tu fai vei a su faluto non americate ma ci vuoi che va tu per una sacchi ni chi piccolai me più la me di utale te tu bumbu me ni date io le tue sciazzi che cantare non si cacaru io da tu chi sa che ho zutate io to li voli no casa o vaghi te care va io mi do hashi ni superi canta su di chi non è tanto pari o lo stessi su un taglio gli amini tovano finché non è vuoi sai a su valuto non davvero gli anni ma ci vuoi più che te con la suscita non sa chi è i tavi da ste dolo polo di notte sa che i mega ai mai di notte poche te iori ga calada o tutu mi come io da facci a cari mo sa che yuki ga u hito nami o wakte mo ga no jo wa urayami o nukata shita